mi ha fatto sulla scena tardi, nel 2017. Ok, poco tempo fa, 5 anni fa. Quindi il mio percorso è recente. In realtà fino dalle 8 alle 15 sono bancaria per sopravvivenza e poi il pomeriggio... L'ho scoperto stamattina questo. Guarda che... Malgrado il caldo, chiudo la finestra perché i Ryanair stanno arrivando. E quindi niente, sì, sono bancario per metà giornata, poi il resto della giornata, oltre a dedicarmi ai miei bimbi, appunto, che sono qua fuori che ci ascoltano, mi dedico all'arte contemporanea, che è la mia isola felice. Per cui anche tu sei parte di quell'80% che Aui ha scoperto essere, esatto, tra i lavoratori dell'arte. Praticamente l'80% di noi ha bisogno di un secondo lavoro per permettersi di fare il lavoratore dell'arte. Esattamente, beh, è anche generoso come percentuale, pensavo di più sinceramente. Pensavamo il 99,9999, esatto. Beh, periodico. Invece, 80% comunque è spaventoso, se ci vogliamo pensare. Sì, poi, rispetto, no, agli altri paesi, assolutamente. Esatto, esatto. Però sì, diciamo che questo completa un po' il bianco e il nero di un unico centro, nel senso che magari anche facendo un lavoro, e io lo dico per esperienza anche personale, facendo un lavoro che è un po' distante dalle passioni artistiche, poi si riesce a guardarle con una voglia di ossigeno, una fame, una curiosità, un'apertura, anche una rigidità verso, secondo me, un meccanismo onesto, particolare, che è una grande virtù. Io insomma sono molto attratta e molto complimentata, quindi ti faccio i complimenti per questa, grazie, tua seconda vita e per questa tua nuova nascita, anche perché hai scelto un momento e un luogo del mondo dove, insomma, veramente vuol dire che avevi un fuoco dentro da ascoltare, no? Quindi, sì, quindi raccontaci di più. No? Esatto, com'è partita questa, passione? La passione c'è da sempre, perché alla fine la mia formazione è umanistica, quindi lontanissimo 2004 mi sono laureata in lettere moderne, poi ho sempre seguito come appassionata, insomma, mostre di arte, e poi dopo un paio di silurate, passatemi il termine, in banca, e dopo così le due maternità ho deciso, insomma, di fare qualcosa per me che mi gratificasse come persona, e quindi ho detto, vabbè, proviamo, un po' per scherzo, un po' per gioco, e mi sono creato un profilo su Facebook che non apprezzavo tantissimo, ma che per me è stato un trampolino fondamentale. Sì, è iniziato a girare per mostre, lì scrivevo, insomma, i miei pensieri. Tra l'altro la prima mostra su cui ho scritto era la Labs, dove ho conosciuto Giovanni, quindi proprio un cerchio questo. E da lì hanno notato come scrivevo, quindi mi ha contattato una prima rivista, Small Zine, Loredana Barillaro. Poi da lì è stato un domino virtuoso, sono partita la prima pedina, dopo a crescere. Bello. Ho iniziato a scrivere testi critici, sì, collaborazioni con le riviste, quando faccio quello mi sento un po' più bene, non so, certo, quando entro in una galleria, vedo una mostra, tutto di me ride, certo, proprio, certo, certo, non riuscirei a farne meno, insomma, quindi. Bello, molto molto molto bello, sei anche l'esempio di quelle persone che scrivono sui social e veramente servono. Ah, esatto, sì, a me è tutto passato da lì, non ci credevo, ma tutti i contatti sono passati incredibilmente da Facebook, quindi sì, consiglio, perché effettivamente può essere una vetrina, perlomeno per me è stato così. Certo, certo, certo, certo. Io invece Jenny Owen Youngs l'ho scoperta su MySpace, quando prima ancora di Facebook. Veramente grande. Certo, e siccome è uscito un nuovo pezzo, dobbiamo sentirlo. Ce l'ascoltiamo, per assolutamente, forza. Si intitola Ghosts. Been swallowing my gears against the uphill ground now. Just when I think I reach the took a shot. Now we're just alone together, not knowing how much time we got. Stavo quasi per fare una pessima figura, mentre invece stava ancora cantando la mitica Jenny Owen Youngs, che una volta ho fatto anche tutta una trasmissione su di lei senza che lei lo sapesse. Veramente? Eh sì, perché c'era il lockdown e non sapevo più di cosa parlare. Quindi hai parlato di lei in tutti i suoi... Sì, sì. Sì. Questo disco com'è che si chiamava? Questo si chiama, è un pezzo nuovo, è uscito tipo 3 giorni fa e si chiama Ghosts. Ok, super. Perché sta uscendo un nuovo EP. Ma anche ogni volta che mi sposto nella sedia mi sento molto in imbarazzo perché si sente completamente. Vabbè, cosa possiamo fare? Okay, sono okay. Le fantastiche sedie del nostro studio anche qui Reina. A Radio Città Fujiko. E poi abbiamo Giovanni Vale. Esatto. No, vabbè, stavo facendo una pausa. No, perché volevo. Suspense. Ma vado da sinistra verso destra, per cui volevo far parlare Vale. Ciao. Come stai? Bene. Bene, tu sei un artista. Sì. E hai aperto un nuovo spazio. Esatto. Che sì. È una cosa che gli artisti non fanno di solito. No, adesso no, ormai stai... Sì, di solito non lo fanno, però io faccio cose che di solito gli altri non fanno, ecco. Esatto, brava, questo mi fa grande. Piacere. E niente, io... Raccontami prima di te, poi dello spazio okay. Ne parliamo dopo. Allora, niente, la mia formazione... Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Sei bolognese, infatti. Sì, sono puramente bolognese. Una delle poche artiste esatto, bolognesi. Esatto, esatto. Infatti in Accademia c'è pochissima gente di Bologna, in realtà. Sì, siamo io, te e Davide Rivalta, praticamente. sì, esatto. Una bolognese che studia a Bologna rimane a Bologna. Top. Per ora sì, dai, top. Per ora sì. con chi l'hai fatta l'Accademia? Da poco, immagino. Sì, l'ho finita l'anno scorso. Ah, wow. Esatto, e mi sono laureata in pittura? In pittura, esatto. Con in che senso? Con che prof? Con che prof? Ah, con Luca Caccioni e certo. Prima ho avuto Bruno Benuzzi. Grande. Due grandissimi. Sì, no, infatti. No, anche Caccioni è bolognese doc, giusto? Sì, sì, sì. È vero. In realtà ci siete. Sì, no, infatti. Equilibrate. Siamo almeno 7. Sì. Grande, grandissimi. E quindi dipingi, che hai fatto pittura, oppure ho detto una cosa molto scontata, molto banale? Allora, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ha la fortuna che se tu sei iscritto al corso di pittura non vuol dire che pitturi per forza. Ok, perfetto. Puoi fare tutto quello che vuoi, in realtà sono dei corsi molto liberi, quindi io faccio installazione, disegno e fotografia per lo più. Ok, perfetto, hai battezzato questi tre come i tuoi linguaggi, diciamo. Sì, poi qualche volta delle performance e dei video, però per ora mi sto concentrando di più su quei tre, insomma. Certo. Anche perché dopo la pandemia, stare chiusi in casa, eccetera, è stato più semplice per me disegnare che fare le altre cose, chiaramente. Il disegno uno lo può portare ovunque, farlo in qualsiasi momento, esatto. Su vari materiali, su vari supporti, carta bianca. Graffite, carta? No, io uso, spazi. Io sono passata prima dal sangue alla sanguigna e ora invece faccio dei disegni con varie matite, biro e sempre il sangue anche. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Se vai su valepalmi.com trovi tutto. Vedi tutto. Esatto, okay, sì. Okay. Ah, che bello. Adesso mi dice mi dice your browser is no longer supported. Ops. Non mi piace. Ho spaccato il browser. No, no, vai. Posso chiederti come hai scelto il linguaggio del sangue, se è una cosa che ha, non so, una narrazione che vuoi raccontare, se è una cosa puramente... Allora, è una cosa che in realtà non racconto spesso perché viene da quando ero piuttosto piccola. Ho letto un libro di Baricco che si chiamava Oceano Mare. In questo bel libro c'era questo pittore che dipingeva il mare con il mare. Facendo delle tele trasparenti sostanzialmente, perché usava l'acqua del mare per dipingere il mare, per cui mi sono chiesta come posso dipingere l'essenza di dei soggetti, delle persone, degli animali con la loro stessa essenza, ed era chiaro che la loro stessa essenza sarebbe stata il sangue. Certo, certo. Ed è un sangue che, no, scusami, io sono curiosa adesso di fare queste domande. È un sangue che compri, che, cioè, dove lo trovi? No, queste cose non si possono dire. Domanda complessa, ok, d'accordo, d'accordo. Troppo CSI. Va bene, va bene, va bene. E comunque hai anche una maglietta rosso sangue, giusto per contestualizzare ancora di più il discorso estetico. E stai lavorando con Giovanni. Esatto. Giusto? Sì. Che ha un nuovo progetto, che è l'apertura di questo spazio. Sì, esatto. Giovanni, tu sei un curatore invece. Dico sì, bene. Io derivo da storie, storie critici, insomma. Certo. Giovanni ha anche un cognome, Avoglio, giusto? Giovanni Avoglio. Grazie. Esatto. E Vale Palmi. Sì. Siamo bravi. Io sono andato a leggerlo, obiettivamente, però. Così. Io l'ho letto, non sapevo dove mettere l'accento, allora sono stata zitta. Ah, vedi. È stato perfetto, Avoglio, non lo azzecca mai nessuno, di solito. Okay. Lo sbagliano sempre. Mi sono avvicinato all'arte contemporanea per un esame, è andato male. Ok. Perché volevo in realtà fare archeologia, quindi sono passato completamente ad un'altra sfera dell'arte. Certo. L'esame di arte contemporanea mi è andato malissimo e di conseguenza ho deciso di approfondire, certo, quegli studi. Mi sono innamorato di alcuni artisti, in particolar modo di De Dominicis, Gino De Dominicis. Ah, certo. E da lì è nata una passione che continua ancora oggi. Che poi non ti è più lasciato andare, quindi hai mollato archeologia e ti sei iscritto. No, diciamo, ho fatto un percorso di studi che eclettico. Esatto, eclettico, quindi prevedeva poi nella specializzazione specializzarsi in archeologia, però ho preferito poi specializzarmi in arte contemporanea. Qua a Bologna? Qui a Bologna. Ok, sei bolognese anche tu? No, io sono siciliano. Ok. Emigrato in Emilia Romagna. Okay. A 18 anni, okay, anzi 19, quasi 19enne, prima Parma e poi Bologna. Per studio? No, per studio. E poi non ho più lasciato. Sì, come l'arte, Bologna, l'amore. Ah sì? Marco Roma. Marco Roma, è vero, andiamo a cercare Marco Roma. Perché quando mi escono queste frasi sull'amore non posso non pensare a Marco Roma. Ok, e come hai conosciuto Vale Palmi? Poi capirete chi è Marco Roma, perché sembrava un'uscita così, ma poi sentiremo un pezzettino di Marco Roma che ci dedica ogni giorno. Come vi siete conosciuti? Per racconta lei. No, ci siamo conosciuti in realtà per uno strano equivoco, che però sarebbe molto lungo da raccontare. È anche un qui. Po' imbarazzante. Molto quindi. Imbarazzante, molto okay. Imbarazzante. Meglio superare questo momento. E no, e per il resto comunque ci siamo conosciuti nella galleria in cui lui lavorava. La prima volta che ci siamo visti è stato lì. Ah, ok, perfetto. Che è? La Labs. Perfetto, che è dove? Insomma, Labs vi ha unito tutti e tre, dove Maria sì, Chiara ha conosciuto. Sì, esatto. Okay. È dove esatto, ci siamo sì. Uniti, così pubblicizziamo. Vale esponeva, tu hai curato e tu hai scritto il testo? No, in quel tempo okay. Io avevo visitato. Era solo tu lavoravi e tu hai visitato. Una tempesta di fulmine, sì, tipo. Sì, sì. Okay. Sì, esatto, io lavoravo e loro due visitavano e ci siamo conosciuti esatto. In quel modo, grazie tra varie chiacchiere. Sì. Certo, ok, perfetto. E poi si sono uniti. La mostra di chi era, giusto per capire chi ha fatto da scenografia tutto questo la magico incontro? In quel momento, tu ricordi? Quando sono venuta io c'era Puglisi. Ok. Lorenzo Puglisi. E tu? Quella sui trifogli di Marco, come si chiama? Marco Roma. Ah, no, era per la fiera del libro, comunque, la fiera del libro dei ragazzi, libro, sì. Quindi era una mostra collaterale. Eccolo Marco Roma. L'infedeltà è la cosa più brutta che c'è. L'infedeltà non è fa parte di me. L'infedeltà non fa parte di nessuno. Io sono Marco Roman. Buongiorno a tutti voi. Fantastico Marco Roma. Io mi sto ricostruendo la sua storia. Qualche un mesetto fa non l'abbiamo sentito per 3 giorni. Si era innamorato e adesso cosa è successo che parla di infedeltà? Chissà, non lo so. Comunque questo è di oggi, spedito oggi. Marco Roma, non essere infedele, mi raccomando. No, ha detto che l'infedeltà non è parte di me. Ma è la classica cosa che dice un traditore. Lo tipico. Fantastico. Tipica frase del traditore. Infatti. È così. E quindi, ok, vi siete conosciuti per la mostra di Pugliesi e di Marco, che poi è sposato nel Marco Roma. Non era Marco Roma, era un altro Marco, ok? E adesso aprite uno spazio che si chiama Studio La Linea Verticale a Bologna, brand new. La settimana più hot di Bologna, esatto. Diciamo, no? E lo aprite insieme perché avete già lavorato insieme come artista curatore, come è andata avanti, poi vi siete conosciuti da Labs e non lo aprite insieme? Conosciuti da Labs e poi siamo diventati una coppia e quindi da lì non ci siamo più lasciati. Ogni giorno stiamo insieme, ogni minuto praticamente. Sì, il nostro lavoro che facciamo insieme è il mestiere dell'amore sostanzialmente, quello in realtà. Per cui adesso per la prima volta iniziamo a lavorare a fare un lavoro concreto insieme, sì. Com'è stato la scelta del nome, per esempio, no? Ma il nome è stato molto sofferto, perché ovviamente ci sono stati mesi e mesi di liti per trovare il nome giusto. I 9 mesi della gravidanza, no? Più o meno, finché ci siamo affidati a Franco Battiato. Quindi abbiamo detto, vabbè, tireremo fuori il nome da una canzone di Franco Battiato. Perché Franco Battiato e non Lucio Dalla? Perché Franco Battiato? Diversi motivi. Intanto quell'anno siciliano. Siciliano di Catania, io sono siciliano, quindi comunque porta un po' l'acqua del mio bolognese. Lei è bolognese, ma lei voleva ispirarsi a qualcosa. Sì, ma amo comunque molto Franco, per cui diciamo la galleria che andremo ad aprire, Studio La Linea Verticale, ha comunque un'accezione tipo spirituale e Franco Battiato forse è uno dei massimi esponenti della musica della spiritualità, quindi quello è importante. Fantastico Franco Battiato, anche a me piace veramente tantissimo. Sì, poi quell'anno è morto, quell'anno in cui noi abbiamo poi trovato il nome, quindi ci siamo poi più concentrati ancora di più su un omaggio. Sulla sua musica, finché. E quindi sì, sostanzialmente il nome della galleria è nato da una sua canzone in cui praticamente lui dice: la linea orizzontale ci spinge verso la materia. Quella verticale verso lo spirito. Grande. Chiaramente canta meglio di me, però. No, stacchetto stupendo. La canzone si intitola Innere Saughe. Ok, perfetto. Che infatti prima dicevate che se c'è la possibilità di mettere, magari un pezzettino ce lo ascoltiamo. Se si riesce. Sì, dopo. Se mi davate 3 minuti di preavviso. No, magari. Dico dopo. Come chiusura di Coxo. Ah, ok, sì, certo. Come chiusura di Coxo. Ok, e quindi questa linea verticale si legge anche nel vostro sito, che è studiolalineaverticale.com .it e che troveremo in Coxo Spaziale nel sito, come sempre. Esatto. E se volete scriverci al 333-1809-494 potete farci delle domande e noi le rispondiamo. Esatto. Okay. E raccontate sull'about, diciamo sulle informazioni rispetto a questo spazio, raccontate che è un po' un'indagine, no? Quella che vi siete preposti di cominciare a fare. Un'indagine un po' anche identitaria, giusto? Su insomma, volete parlarcene in qualche modo? Studio La Linea Verticale significa io studio la linea verticale, quindi è una specie di gioco di parole tra il fatto di essere un luogo di studio e proprio il fatto di dichiarare, di studiare una certa tendenza che si stacca, diciamo, dall'ordinarietà del mondo orizzontale che riguarda la quotidianità degli esseri umani e quindi si concentra appunto su una linea verticale che, come abbiamo sentito nella canzone di Franco, porta allo spirito e quindi si stacca dall'ordinarietà per dirigersi verso una certa straordinarietà. Certo, verso l'alto e verso il basso, in due moti, no? In esatto. Due direzioni. Certo, che la verticalità indica tutto, quindi l'estremamente basso e l'estremamente elevato. Certo, la prima mostra che fate, quando inaugura, chi avete invitato? Allora, inauguriamo il 12 maggio, la mostra si chiama Immateriale Corpo Immateriale, sarà una collettiva dove avremo 7 artisti e 3 testi critici, tra cui un testo anche di Maria Chiara, poi un testo di Tatiana Basso e un testo di Anton Giulio Vergine. Gli artisti sono diversi, ve li posso anche citare tutti. Citaceli tutti. Citaceli. E sono Ludovico Bombenna. Una la conosco. Come? È già stata ospite. Chi? Armenia. Armenia. È stata qua. Sì, certo. Ah, grande Armenia. Armenia panfolclorica. Anzi, Claudio Valerio. Due adesso ne conosco. Poi abbiamo... Flavia Tritto, Alberto Colliva, Catrien Paysage e Vale Palmi. E Vale Palmi che è qui con noi, yeah. Esatto, ci sono anch'io. Beh, mi sembra giusto, dai, cioè, voglio dire, ci sta da Dio. Solo stavolta, me. Solo stavolta. No, ma ci sta, secondo me ci sta tranquillamente che, ah, certo. Cioè, che un artista e un curatore aprono uno spazio e nella prima mostra ci sei. Cioè, presenti la tua sensibilità, il tuo punto di vista, il tuo sguardo. Sì, più che altro perché essendo la mia linea di ricerca, io ho sempre poi sognato di creare un gruppo di artisti che appunto studiassero quelle cose, che facessero arte in quel modo, e quindi niente, stavolta mi ci sono messa anch'io. Volete anticipare qualcosa sulla mostra? Forse Maria Chiara vuoi dire qualcosa tu dal tuo occhio esterno, diciamo, sul tuo testo critico, che immagino rifletta sull'idea di mostra, no? Sì, diciamo che vabbè, il mio testo critico rispetto a quello di Tatiana e di Anton Giulio si concentra un po' di più dando una breve descrizione di quello che è il lavoro dei 7 artisti, guardandoli un po' dalla prospettiva del rito e del rituale. E vabbè, il testo è costruito seguendo il diagramma che hanno ideato Giovanni e Valentina, dove appunto gli artisti procedono da una situazione di materialità del corpo per avvicinarsi al corpo, adesso diciamo 5 subito, e poi dopo insomma questo corpo si torna a smaterializzare, quindi diciamo che dal testo si vince un po' questo andamento, collegandolo però appunto nella prospettiva del rito, che è, come dice un filosofo coreano a me caro, che mi ha fatto scoprire Valentina un po' nella società contemporanea. Vale. Vale, amici, vale, ti prego. Vale. Ma è colpa del piccolo Giorgio che ci ha suggerito, esatto, prima Valentina. Sì, diseduca i suoi figli facendo in modo che loro mi chiamino Valentina. Ma vale. E quindi insomma appunto dice che nella società contemporanea manca un po', è venuta meno questa consapevolezza, questo uso del rito, la presenza del rituale. Quindi insomma diciamo che questo è un po'. Come si chiama il filosofo? Byung-Chul Han. Ah, wow, stupendo, mi piace tremenda. Tantissimo anche a me. Ho letto Società della trasparenza, o nello sciame. Esatto, nello sciame. E la società della trasparenza, e mi è piaciuto da matti, e ho cercato di seguire una sua lezione a Berlino. E lui è molto bravo perché è bravissimo, in parole semplici, ma mi piace da matti, guarda. È veramente veramente super super. Poi non lo conosco, me lo andrò a ascoltare. Sì. Copertine è molto interessante, sì. E facile, però avvicina copertine in maniera... dei libri anche con colori veramente belli, posso, sì, dire che è una cosa che io guardo sempre, sì, questi blu. Invece io posso interrompermi per la pubblicità, sì, delle va bene, va bene. Ahimè, ci tocca. Forse. Spaziale. Aiutaci a sostenere la cultura, la ricerca storica, la memoria e i valori. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Incredibilmente, stavamo ascoltando le critiche di c'è il nostro soundcheckist fuori. che severissimo. Severissimo, appuntato, si soffia il naso lontano, cioè figlio più educato di così, cioè dovrai raccontarci come li hai educati, esatto, così bene. Un'educazione militare siberiana. Benissimo, benissimo. Anch'io ho ricevuto un'educazione siberiana, in effetti serve, per la sopravvivenza dei genitori. Se no, spero anche per la loro in futuro. No, sì, ci sta. Io oggi mi sono portato questo posterone, non so che cosa, come la mappa di Art City. Sentite il rumore? Sì. Eccoci. Ci sono tantissime questa settimana cose. Inaugurano, no, perché alcune sono già inaugurate, sì. Però ci saranno aperte in città 200 mostre. Come facciamo? Sì, appunto, impossibile. Cioè, se dovessimo fare l'angolo della menzione staremmo qua fino a mezzanotte. Ma anche andarle a vedere tutte, cioè, andarle a vedere fa? Tutte è un casino, infatti anche l'ultima volta. Sai cosa sarebbe fighissimo? Che si facesse tipo sponsor di Art City, un monopattinino elettrico piuttosto che la bici, qualche mezzo di locomozione super rapido, così vai con ovviamente anche il porta cataloghini e il porta esatto. Drink, così passi da un opening all'altro girando velocissimamente e guardandoti. Sarebbe da brevettare e presentare, no? Io volevo ringraziare Paola Naldi che ha scritto un articolo su Repubblica con le 10 cose da vedere. Grazie Paola, esatto, perché ci hai salvato stasera. Infatti, peccato che poi è un articolo a pagamento, per cui oggi lo volevo riguardare e non potevo più rivederlo, però me le ricordo. Sì, grande, sì. Dicela. Naturalmente Tino Segal, che è la cosa numero uno. Tino Segal è un performer molto importante, che ha fatto cose interessantissime e che ci sarà questa performance in Piazza Maggiore dal 13 al 15 maggio, dalle 10 alle 19, e il 14 maggio dalle 10 alle 22. Andate a vederla, perché Tino Segal lavora sempre senza immagini, per cui o ci andate a vederla o non vedrete mai le sue immagini. Ma figurati, cioè questa volta le vedremo, perché vedremo. Come fai a fermare tutti i passanti di Piazza Maggiore? Beh, ma non saprai mai esattamente, va vista, dai. Dopodiché, non in ordine di importanza, abbiamo l'oratorio di San Filippo Neri, Carlos Garacoia, anche Garaicoa, non so pronunciarlo, scusatemi. E anche lui è un artista molto interessante, e anche lo spazio molto interessante. Il progetto, l'installazione sarà specifica a cura di Maura Pozzati, che ha curato anche un'altra cosa in Palazzo da Curzio, che è la numero 3. È la numero 3? Non so, no, non è la stai numero dicendo. 3. Mi stai confondendo, no, c'è veramente un sacco di roba. E, no, io ti dico quello che andrò a vedere io sicuramente, che è Mattia Payet ad Alchemilla, che ci vado domattina perché c'è la preview per la stampa. Super. E, che sono curioso di vedere il suo nuovo lavoro. E anche Giulia Nicolai al padiglione dell'Esprit Nouveau, subito fuori da Arte Fiera, con una mostra che si intitola Perché lo faccio? Perché? La vita poetica di Giulia Nicolai. Giulia Nicolai è un'artista che non c'è più, che è scomparsa. La mostra è a cura di Alison Grimaldi Donahue e Caterina Molteni. Caterina Molteni è una curatrice del Mambo, certo. E Alison invece era una delle artiste al nuovo Forno del Pane, così come Mattia Payet, per cui mi fa piacere che questo nuovo Forno del Pane abbia sfornato un po' di cose, tra cui appunto anche la grafica di tutto Art City. Marco Casella insieme a Filippo Tappi, che è un altro degli artisti del nuovo Forno del Pane. Poi naturalmente c'è l'altra parte di Fronte Retro, la mostra di Italo Zuffi, è al Mambo e finisce domenica, anzi se non ci siete stati andate a vedere quella del Mambo. E poi quando è che apre? Il 7, nella Banca di Bologna apre l'11 alle 7 alle 18:30, okay. Che è appunto la seconda parte di Fronte e Retro, questa doppia mostra che c'è sia al Mambo che al Palazzo dei Toschi in Piazza Minghetti, di Italo Zuffi, che salutiamo, che anche lui è stato qui ospite da noi. Super, salutiamo tutti quelli che abbiamo citato. Poi abbiamo Andreas Angelidakis, che io non conosco personalmente, nel senso che non conosco il suo lavoro, però se Paola Naldi mi dice che è una mostra da non mancare, ci fidiamo ciecamente. La mostra cura a Palazzo Bentivoglio, a cura di Antonio Grulli, che è sempre quello che cura tutte le mostre a Palazzo Bentivoglio. E poi c'è un sacco di altra roba, oltre alle vostre c'è la mostra degli studenti al liceo artistico Arcangeli in via Cartolerie, questa è da non mancare, di solito ci sono cose veramente interessanti. Salutiamo anche gli studenti del liceo artistico. Non lo sapevo, sai che ci andrò, sì, questa volta ci andrò di brutto. Assolutamente. C'è una bella, sì, dunque la mostra degli studenti parte il 12, sì, l'opening alle ore 18 il 14 maggio, però in realtà la mostra c'è già dal 12. Super. E il 14 abbiamo anche una performance alle ore 17, se ti interessa. Sempre al liceo artistico. Sempre al liceo artistico in via Cartolerie 9. È da prendersi la settimana di ferie. Sì, certo. Settimana di ferie. Perché non hai preso una settimana di ferie? No, me ne sono dimenticata. Chiederle. Poi abbiamo la raccolta all'Ercaro che ha inaugurato la settimana scorsa, c'è una bella collettiva che si intitola, non mi ricordo più, una collezione a confronto a cura di Leonardo Regano e di Francesca Passarini. Ci sono dei bellissimi lavori di Kiki Smith, di Nico Vascellari, di Vedova Maffei, oltre a un sacco di altri artisti, e anche cos'è che mi era piaciuto? Anche un bellissimo lavoro, un dipinto di Vanessa Bigroth che mi è piaciuto molto, sì. No, quella è una mostra assolutamente da vedere. Poi Kiki Smith la amo. Sì, proprio, Kiki Smith è fantastica. Fantasticissima. Nella Project Room del Mambo inaugura No Neon No Cry, presumo che si pronunci così in questo caso, perché stiamo parlando della storia della galleria Neon a cura di Gino Giannuiffi, che ha curato appunto è stato il fondatore e il direttore della galleria Neon per tutti fino a metà degli anni 2000, credo, se non sbaglio. Per cui c'è questa, nella Project Room ci sarà questa sorta di mostra che racconta che cosa è stata la Neon, che magari per voi che non l'avete vista, no. Sicuramente è un'esperienza interessante. Stato un mio professore anche Giannuizzi. Ah, vedi? Okay. Com'era come professore Giannuizzi? Bravo. Ah, beh, sei stata simpatica. No, perché Gino è un personaggio molto timido, per cui da professore me lo immagino, non lo so. Sì, è timido, però ci tiene un sacco alle cose che fa. Vedi? Ah, bello. No, infatti una mostra da non mancare, stavo guardando se riuscivo a capire quando inaugurava, ma non ce la faccio, non si capisce. Però comunque questa settimana, no, che cosa? La mostra che ti piace, che non sai come. No, ah, no, questa di Giannuizzi, sì, quella scusa di Neon. Che, cioè, vabbè, comunque metteremo tutti quanti sì, link, esatto, su Coxo Spaziale. Comunque si inaugura tipo credo venerdì, se non sbaglio. Poi alla G7, forse l'avevo già detto anche la settimana scorsa, c'è una bella mostra di Caterina Morigi e Maria Teresa Sartori, anche quella da non mancare. Anche da non mancare la mostra che è già su da un po' alla Galleria Più di Gluckia e Cathy Horna, dove ci sono queste foto dove è rappresentata Leonora Carrington. Wow. Molto surreali, anche quelle è da non mancare. In sintonia con la stasera Biennale. Inaugura il Capanun a San Lazzaro con una mostra una mostra di Mario Schifano chiamata Riguardando Laboratorio Umano e Pittura. Poi al bar Vittorio Emanuele, sempre in Piazza Maggiore, perché comunque ha tentato di avvicinarsi, certo, il più possibile a Tino Segal, immagino, Flavio Favelli, con una mostra che si chiama Nuova Mixage, e lui fra l'altro apre anche il suo atelier che però si chiama, non mi ricordo già più, comunque lo scriveremo su coxospaziale.blogspot.com e basta. Tantissime cose. No, in realtà io qui davanti ho solo la mappa che ha 107 mostre, mentre invece ce ne sono molte di più, tra cui Daniele Cabri in fondo a via curata da te, giusto? Sì, in fondo. Dimmi dov'è che c'è. Lo studio Usegate. Usegate? In via, esatto, Castiglione. In via Castiglione 81. Grande. E inauguriamo il 13, poi vabbè, per la notte bianca ci sarà una sorta di presentazione alle 8 con Daniele e con me. Ottimo. La notte bianca è sempre il 13? Notte bianca è sabato. Sabato quasi tutti gli spazi sono aperti fino a mezzanotte. Esatto. La prima volta che sono venuta a Bologna è stata per la notte bianca. Vedi? Pensa a te. Che pressione hai avuto? No, adesso ho già una domanda in canna. Quando finisci di dire questo, ho una domanda in canna per te, Maria Chiara. Ok. Con Daniele è la terza collaborazione in un anno, direi. Daniele è una persona splendida, oltre ad un artista molto molto competente, ed è la seconda insieme in collaborazione con lo studio Cenacchi, che ha organizzato e appoggiato questo studio Usegate. E quindi insomma speriamo che ci sia attenzione. Poi vabbè, quest'anno ci sono diverse altre mostre interessanti in zona. dove anche di Valli, di Giovanni. E certo, che ricordiamo dov'è la vostra. Quindi, in via dell'Oro. Via dell'Oro 4B. 4B. Alla fine di via Castiglione. Alla fine di via Castiglione. Anch'io vorrei citare quella di Stefano W. Pasquini. Esatto, all'inizio di via Castiglione, quindi se non potete proprio, via Castiglione. Se proprio no. Insistete, citatela. Poi, certo, nel senso che... No, io non dico di no, insomma. La Chiara Pergola non lo farebbe, sappiatelo. Beh, dai. Perché, ci può stare. La Chiara Pergola ha già inaugurato, quindi sì, no, è non vero. L'abbiamo Anzi, citata. Tra l'altro non l'abbiamo citata. The Soft Parade l'abbiamo citata la settimana scorsa. Io devo ancora vederla, fra l'altro, perché anch'io, ero via per l'inaugurazione. C'è anche un'opera di Giovanni, The Soft Parade. Ah, vedi, sì, è stato l'opera di Luigi Ontani. Okay. Hai capito. L'ho prestata per la mostra. Ah, certo. Per cui sei anche un collezionista tu. Sì. Sì, collezionista, mercante, insomma, si cerca di essere teorico, un po' tutto teorico. Molto bravo. Ma allora vi faccio questa domanda a tutti e tre, poi io avevo pensato a Maria Chiara perché scriveva, ma adesso che hai detto teorico anche tu te la chiederò a te e ovviamente anche a Vale Palmi, perché come escludere una persona, ma e anche a te Stefano, a tutti. Ma quando ci sono questi eventi così ricchi, no, non soltanto immagini ma di tempi fagocitanti e un pochino anche bulimici, se vuoi, no, da un certo punto di vista, che potevano essere quelli degli opening della Biennale o questi degli Arts City, che va un po' ad allargare il fenomeno fiera e va a diventare proprio un fenomeno sociologico urbano. Come lo sguardo di un addetto dell'arte critico, che deve in qualche modo mantenere una sua oggettività nei confronti di un'opera, una mostra, così una presentazione, può rimanere lucido da una condizione che per me, appunto, a livello sociologico e umano ti sballina, ti mette dentro una specie di montagna russa, un frullatore e vedere una cosa, non so, io non sto parlando proprio di un quadro che vedo in un contesto o in un altro, parlo proprio di una mostra intera, quindi vedermi un giorno, in un mese, la mostra di vostra o sua, ho una certa percezione, e vederla invece all'interno di tutto questo meccanismo ne ho totalmente un'altra, no? Certo. E quindi come si conserva questa cosa? Voi scrivete subito, sia a livello pratico scrivete subito o aspettate di metabolizzare qualche giorno, e sia a livello teorico come pensate di tutelare anche il vostro sguardo critico di fronte a dei meccanismi estremamente, citando il nostro filosofo coreano, appartenente a una società della prestazione, no? Che non dorme mai, che non finisce mai. Sì, diciamo che un momento così concitato diventa difficile realmente concentrarsi su qualcosa, quindi probabilmente quello è il momento in cui capisci o ti fai una panoramica, un'ottica di quello che viene proposto, e successivamente dovrai comunque tornare obbligatoriamente a vedere una mostra, a vedere l'evento, per poi poterti concentrare, perché quando in un giorno vedi 10, 15, 20 mostre, ovviamente il cervello va completamente fuori di testa. Una mostra d'arte ha bisogno comunque di concentrazione, un'opera d'arte ha bisogno di concentrazione, ha bisogno di riflessione e di tempi più o meno lunghi. Quindi dal mio punto di vista non mi è mai capitato di scrivere di fretta, o comunque di aver fretta di dover dire non qualcosa. Non sono solo io che vado fuori di testa, quindi. No, tutti vanno fuori di testa. È questo. Cioè, ha bisogno di tempo, ecco, quindi probabilmente avere un'ottica, avere una panoramica aiuta comunque a capire su cosa concentrarsi. Certo. Tu, Maria Chiara, sei... Sì, pienamente d'accordo. Io anche ho bisogno di lasciare sedimentare, ho bisogno di tempo, ma anche di silenzio. Poi, vabbè, tendenzialmente sono abbastanza allergica agli opening, un po' perché sono orso di carattere, ma un po' perché se voglio godermi le opere ho bisogno di calma. Ma quindi, gli opening si va per chiacchierare, sì, per fare relazione, che serve, è fondamentale. Però sì, sono due aspetti diversi del lavoro, quindi sì, anch'io ho bisogno di calma, come per la Biennale, insomma, ci siamo visti, quel giorno avevo un'idea, poi tornata a casa, lasciata sedimentare, già cambiata la prospettiva, quindi sì, non riesco di getto. Sì. Cioè, magari posso avere una sensazione, una percezione, però se voglio, insomma, costruire una critica un po' più... Che è un po' il dramma delle fiere, perché quando guardi le opere in fiera sei sempre, è come un'inaugurazione continua, capito? Sei sempre... circondato da cioè da quello che non dovrebbe circondare l'arte, no? Beh, Fiero è un intermercato dell'arte, esatto. Alla fine è un collezionista, cioè a livello di vendita faccio una domanda un po', non so se, se si può fare o no, a livello di vendita gli opening servono anche per vendere secondo voi? Sì, certo. Sì, cioè Bologna succede, no? Succede, però a Bologna poco. Bologna molto poco. Bologna è una realtà abbastanza diffidente nell'acquisto dell'arte contemporanea. Forse è una città che si sta abituando, sta iniziando a guardare l'arte contemporanea. Ha una storica, uno storico collezionismo dell'arte storica, però sul contemporaneo è ancora difficile, si muovono i primi passi, nonostante poi sia anche la prima fiera, l'arte fiera è la prima fiera che è nata al mondo. Beh, le prime fiere non al mondo, scusami, d'Europa è stata la prima fiera, neanche in Europa, è stata Basel, è stata Basel, poi subito dopo è stata l'arte fiera, è la prima in Italia sicuramente, però sì, no, devo dire che Bologna ha un po' un collezionismo un po' provinciale, nel suo senso, voler offendere i collezionisti, però molto esterofilo, molto, cioè, certo. I collezionisti bolognesi tendono a comprare tanti stranieri. Certo, e quindi i galleristi bolognesi ad esporre stranieri, perché così i collezionisti comprano le loro opere, probabilmente per nutrire questo sistema. Io lo guardo da un punto di vista estremamente così commerciale, no? Oppure vendono a collezionisti non bolognesi, che ci sta, certo. Perché poi Bologna c'ha di bello che è molto centrale rispetto al collezionismo italiano. Certo. E certo. In effetti a Tefira, che poi vabbè, di cui non abbiamo parlato, però di fatto tutto questo succede per via della fiera. A Tefira in effetti è una fiera molto comoda per finire, come si dice, per incontrarsi, per finire contratti, eccetera, eccetera. Cioè, per gli addetti ai lavori è una fiera molto utile, proprio per il fatto che è molto centrale, unisce nord e sud e ti permette di vedere tante persone del mondo dell'arte italiana. Infatti, secondo me, la grande opera di performativa che succede durante la Biennale o durante Arte Fiera è questa performance in cui, se ci mettiamo per un secondo una grande navicella volando nello spazio, guardiamo tutte queste persone che corrono a destra e a sinistra, si relazionano, cioè uno studioso ci penserebbe che, non so, una razza che si sta preparando alla stagione dell'amore, piuttosto che cioè, tutti che cioè così, no? Tutti che corrono come dei che parlano, corrono, guardano, comprano e girano, no? Di per sé questa è una grandissima performance, se ci pensiamo. E infatti è bello vedere poi rimanere nella stessa città e vedere poi cosa succede il giorno dopo, no? Quando tutti sono volati via. Sì, che poi del resto è così per tutti, voglio dire, è così per la Biennale, no? Per i veneziani che vedono la Biennale finire e tutte le mostre piano piano scemare, e così succede anche a Bologna. Per cui abbiamo più o meno, da oggi abbiamo più o meno un mese di tempo per vedere queste 202 mostre o quante sono. Però, se non fosse che tante di queste finiscono velocissime, cioè mia dura 3 giorni, adesso non so quella di Daniele, cioè è proprio però sì, ce ne sono tante, quella di Virelli, molte durano tra cui anche Tino Segal, per dire, capito? Dura 5 ore. Dura esatto. Due giorni. Quei 3 giorni lì. Sì, 3 giorni. Esatto. Tutto il giorno è Tino Segal. Non mi ricordo, l'hai appena detto, però forse sì. Cioè, vuoi te lo vado a rileggere. Comunque. Dunque, il 13 e 15 maggio dalle 10 alle 19, per cui sono 7 perfetto. Ore, e in più il 14 maggio, che è sabato, dalle 10 alle 22. Ok, super, super, super, super. Sì. Bene, non che bello. Non si può mancare. No. Dopodiché invece ci sono altre mostre, tipo la mia Calderara, che trovate sempre. Sì, esatto, che è stata allungata per Arte Fiera. Esatto, è durata 3 mesi perché hanno posticipato Arte Fiera, ma la mostra era già partita. Quindi tu ne hai 2 durante Arte Fiera. Io ne ho 2 durante Arte Fiera, sì. Di solito, infatti, cioè, anche perché poi Calderara andate, volevo anche dire questa cosa, che il motivo per cui ci sono tutte queste mostre è perché la domanda di rito che si fa quando incontri un altro artista, un curatore, eccetera, ma tu dove sei? Certo. E dunque, se non sei da nessuna parte, non sai che cosa rispondere. Niente. E dunque si organizzano mostre tutto, su mostre su mostre, perché così nessuno può dire tu dove sei, ah sì, io sono qui, qua, eccetera eccetera. Cioè, che è un atteggiamento non provinciale ma di più, capito? Certo, è un autentico disastro. E poi devi essere anche in zona, perché sennò come fai a dire tu dove sei, io sono a dislocato, e tutti dicono sì, esatto, già quando dico sono a Calderara, vabbè Calderara tornerò un'altra volta. Esatto, come quelli che fanno, cioè c'è sempre tutti gli anni c'è una mostra in aeroporto, durante altre fiere. Sì. Perché che arriva? Io obiettivamente faccio ammenda. Ma, cioè, chi è che va in aeroporto a vedere una mostra? No, che arriva che probabilmente. Sì, esatto. No, se arrivi e parti, ci sta che l'hai vista, capito? Però, e dove la fanno? Credo nella hall. Cioè, io quest'anno andrò solo a vedere quella. Poi ci dici. Ti taglierò tutto. Lunedì prossimo ci dici com'è. Esatto. No, ti assicuro che ci andrò assolutamente. Bene. Ah, fra l'altro adesso in realtà è tardissimo per far sentire un pezzo nuovo, ma sta uscendo un nuovo disco, come dicevo prima, anche di Reina del Cid, che è quella un'altra che ascoltiamo spesso, per cui adesso ti faccio sentire Candy Apple Red, che è la canzone che dà il titolo al disco. Wow. Poi magari la sfumiamo, perché altrimenti poi ci dobbiamo già salutare. Di sfumarla, ahimè, questa fantastica canzone. Grande, grandissima, Reina. Chi abbiamo qua? Un extra ospite. Un extra ospite che voleva dire qualcosa e salutare, e abbiamo anche delle ultimissime cose certo, da dire. No, assolutamente, dobbiamo ribadire. L'extra ospite lo teniamo come ultima parola? Certo. O no? Ma come vuoi, comunque potete parlare. Si sta preparando. Esatto, invece no. le ultime cose da dire super importanti che Vale Palmi ci stava per raccontando dietro le quinte, diciamo. Esatto, sì. Allora, vabbè, innanzitutto volevo ricordare l'ultima volta che l'opening della mostra della Galleria Studio La Linea Verticale è il 12, quindi fra pochi giorni. Che sarebbe venerdì? No, giovedì 12 alle? Dalle 10 alle 21. Ah, cavoli, un super opening. Una maratona. Una maratona. Un opening verticale. Esatto. Un opening verticale. Ottimo. E volevo anche dire che alle ore 18 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Ignazio, che è a 50 metri dalla galleria, farò la presentazione del mio libro che ho pubblicato un mese e mezzo fa, che ha come editore Pendragon. Ok. E si intitola L'aldilà è un angolo stretto. Oltre la morte nell'arte contemporanea, ed è un po' il manifesto sia della mia poetica che della galleria, sostanzialmente. Per cui, per chi volesse venire, Padre Marinel ci ospita nella sua chiesa. Ah, che bello! Che bello. Bellissimo! Infatti, non è una chiesa sconsacrata, è una chiesa. Io faccio arte sacra e pure la nostra galleria fa arte sacra. Hai per capito? Cui... Fantastico! Il padre. Bellissima sta cosa. Questo venerdì, sempre. Questo venerdì? No, giovedì. Non ci confondiamo. Cavoli, giovedì alle 18. Esatto. Ridimmi il nome della chiesa: la chiesa dei Santi Giuseppe e Ignazio. È vicino a Porta Castiglione, okay. È una chiesa rosa. E poi dopo aperitivo in galleria. Certo. Super. Non in sacrestia. No, in galleria. Ok, dai. Va bene. Con benedizione del prete, perché esatto. Verrà a Vinsanto. Vinsanto. Ah, grande. Fantastico. Ci sta. Lo adoriamo. Mi sembra di vedere una bambina che ha voglia di entrare. Anche lei saluta. Allora, adesso ci sono due persone. Su. Vuoi entrare? Entra, veloce. Allora ci sono due ospitini. Due ospitini? Che dici? Certo. Dicono qualcosa? Come vi chiamate? Giorgio. Giorgio e? Si vergognissima. Mario, ti vergogni? giustamente dice che cavolo volete da me. No, però ha un sorriso bellissimo, chi non vede non può capire quanto sta bene questa ragazzina in questo studio. E invece Giorgio ha controllato tutti speaker, i volumi, è il nostro sound checkist. E praticamente c'è, cioè, la tua prima esperienza di speaker radiofonico in radio, è gasatissimo, vero? Sì. E vuoi dire qualcosa a tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso? Ciao? Sì. Era una domanda. Era una domanda. Puoi salutarli? Ah, sì. Ciao. Puoi salutare la tua fidanzata? No, non ce l'ho. Non hai, come non hai? Certo. Va bene, salutiamo noi le fidanzate, sì, di Giorgio. Esatto. No, io non ce l'ho proprio. Molto bene. E poi niente, vi ringraziamo tantissimo per essere venuti. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Diamo naturalmente lo spazio a Indeco Radio che stavolta arrivano. Che stavolta arriva. Sono pronte di là. Fantastico. E noi, come al solito, finiamo con le parole del nostro fantastico direttore, che dice così: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla, che ahimè non è battiato, perché YouTube non funziona, cioè non funziona nei browser, per cui niente, ce l'andremo ad ascoltare a casa. Esatto, ce l'ascoltiamo a casa battiato. Questa è Little Green invece. Wow. Questa era Coxo Spaziale. Naturalmente noi ci rivediamo lunedì prossimo post Arte Fiera. A child to raise, it seemed my words were silent, more silent than the birds. She said children should be seen, and I.